24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paola Nania e bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi parleremo tra l'altro di finanza e grandi cambiamenti. Dall'addio di Geronzi ai vertici di Generali all'aumento di capitale di due importanti banche europee. Attenzione anche al naufragio di un barcone tra Italia e Malta. 250 migranti provenienti dalla Libia risultano dispersi. Per lo sport ci occuperemo del passaggio della Roma Calcio alla cordata americana di Thomas Di Benedetto e del ruolo degli americani nel calcio europeo. E partiamo, come dicevamo, dal cambio ai vertici di Generali, leader tra le compagnie assicurative italiane con un ruolo rilevante anche in Germania, Francia, Spagna e Austria. Il presidente delle assicurazioni generali Cesare Geronzi si è dimesso e la notizia è stata ufficializzata dalla compagnia e dal consiglio di amministrazione che si è tenuto a Roma. A Geronzi era stata ventilata una mozione di sfiducia di 11 consiglieri. E gli occhi del mondo della finanza sono puntati anche sull'aumento di capitale di due importanti istituti di credito europei. Commerzbank, seconda banca tedesca, conta di raccogliere 8,25 miliardi di euro attraverso cui restituire buona parte del prestito ricevuto durante la fase acuta della crisi internazionale dal governo di Berlino. Aumento di capitale anche per l'italiana Intesa San Paolo, 5 miliardi da eseguire entro luglio. Sebastiano Barisoni ha chiesto all'amministratore delegato Corrado Passera se una così alta disponibilità di patrimonio permetterà di fare maggiori prestiti, facendo diventare Intesa una banca che pur privatamente possa operare per il sistema imprese italiano, in operazioni di salvataggio come Parmalat e non solo. Sentiamo la risposta di Passera. Noi siamo una banca che ha azionisti e che ha delle precise responsabilità. Noi viviamo di credito, vogliamo fare il possibile per contribuire alla crescita del nostro paese e degli altri paesi dove operiamo. Il piano d'impresa prevede 50 miliardi di credito in più nel corso dei primi tre anni e di 100 miliardi di credito in più nel corso dei cinque anni che abbiamo davanti a noi. La banca deve innanzitutto essere responsabile nei confronti dei suoi azionisti e dei suoi impegni. Dovunque è possibile, fa prendere delle iniziative, anche prendendosi delle responsabilità superiori alle normali, per iniziative, per progetti che permettono di creare nuove aziende, di far crescere le aziende che già ci sono, per tenere in Italia i centri direzionali di aziende solide e sane che quindi possono creare sviluppo. Noi ci siamo sempre stati e ci saremo, ne abbiamo fatte tante, ma sempre con l'orientamento di fare cose che siano economicamente e responsabilmente valide. Accelera la ripresa economica nell'area G7, secondo l'OCSE, che la stima più 3,2% nel primo trimestre 2011. L'Italia resta ultima nella crescita. Nuovi problemi intanto dal Portogallo. Il ministro delle Finanze ha confermato che il paese ha bisogno di ricorrere a finanziamenti esterni tramite il meccanismo di aiuti europei. Il servizio. Molto incoraggianti, così il governatore di Banca Italia Mario Draghi ha definito gli aumenti di capitale annunciati da alcuni istituti di credito italiani. Draghi ha parlato al termine della riunione del Financial Stability Board, aggiungendo che restano sacche di debolezza nel sistema bancario a livello globale. E sul fronte economico ieri è stata la giornata dell'Interim Assessment dell'OCSE, che ha rivelato come l'Italia sia il fanalino di coda per la crescita tra i paesi G7. Nel primo trimestre 2011 il PIL tricolore resta inchiodato a un anemico più 1,1%, oltre 2 punti sotto la media delle nazioni industrializzate. L'OCSE prevede per il secondo trimestre un rialzo di altri 2 decimali per il bel paese. In base alle previsioni, da cui è stato escluso il Giappone per l'impossibilità di stimare l'impatto della catastrofe, è il Canada a far segnare la crescita maggiore, ma migliorano oltre le attese anche Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito, tutti oltre il 3%. Il capo economista OCSE Piercarlo Padoan. L'Italia cresce di meno, ma questo riflette i suoi limiti di crescita potenziale. A livello generale resta aperto per l'OCSE il nodo disoccupazione, superiore di 2 punti rispetto al periodo pre-crisi. La politica monetaria dovrà tenere conto dei rischi di una ripresa delle dinamiche inflazionistiche. Infine sarà necessario consolidare le finanze pubbliche. Ed è nuovamente allarme Portogallo con il taglio del rating di Lisbona a Baa1 da parte di Moody's. Sempre più probabile una richiesta di aiuto europeo prima delle elezioni di giugno. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo delle bollette dell'energia elettrica. Bruxelles scrive all'Italia per chiedere modifiche alle attuali regole del mercato cosiddetto di maggior tutela. Il diritto violato, secondo la Commissione europea, è quello della possibilità di scelta da parte del consumatore, perché l'Italia impone ai gestori la fornitura di energia elettrica a prezzi regolamentati a chiunque, tra clienti domestici e piccole imprese, non abbia sottoscritto un contratto con un fornitore sul libero mercato. Fin qui non è molto chiaro perché Bruxelles intervenga. Del resto, i consumatori e le PMI hanno una possibilità di scelta, quella appunto di cercare un altro gestore che offra condizioni migliori e una bolletta più bassa. Ma il ragionamento europeo va oltre. Le norme italiane non hanno una chiara scadenza temporale e vanno ben al di là di ciò che quelle europee prevedono. In questo modo si limita l'accesso al mercato ad altri operatori europei e il danno per i consumatori è proprio qua. Così al nostro paese, come a Romania e Polonia per altre simili questioni, è stato inviato un parere motivato. In caso di inottemperanza partirà la procedura di infrazione. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, come di consueto, l'andamento delle borse. Milano, con un incremento dell'1,2%, ha registrato la migliore performance in Europa insieme alla Borsa di Madrid, trainata dal rally dei titoli finanziari. La migliore sul paniere principale è stata Fonsai, che ha guadagnato il 6% circa con l'azionista Primafin in rialzo di oltre il 19%. I due titoli hanno beneficiato delle indiscrezioni relative a un possibile ritorno dei francesi di Groupama nella partita relativa al riassetto della Galassia Licresti. In netta crescita anche Intesa San Paolo, più 5%. Nel giorno di presentazione al mercato dell'operazione di aumento di capitale da 5 miliardi di euro e del piano industriale. Il mercato, che aveva già scontato nei giorni scorsi l'annuncio relativo alla ricapitalizzazione, ha apprezzato in particolare i target al 2013, ritenuti in linea o leggermente superiori alle stime, e il flusso di dividendi atteso, migliore delle previsioni. Forti acquisti e scambi consistenti anche per Generali e il socio Mediobanca, dopo le dimissioni di Cesare Geronzi dalla carica di presidente della compagnia triestina. Il titolo del Leone ha chiuso a più 2,9% dopo essere arrivato a guadagnare il 5,7% circa, e Piazzetta Cuccia a più 4,8%. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 51 i superstiti del naufragio avvenuto ieri all'alba nel canale di Sicilia. 250 immigrati eritrei e somali salpati dalla Libia risultano dispersi. Il barcone è affondato per le condizioni del mare mentre veniva soccorso dalla Guardia Costiera italiana a 39 miglia da Lampedusa, ma in acque di competenza maltese per la ricerca e il salvataggio. Il maggiore consiglio della Guardia Costiera maltese ci spiega perché Malta non sia intervenuta. Le distanze sono proibitive, le distanze sono più corte da Lampedusa che a Malta. Per questo voi avete chiamato l'Italia, perché era più vicino a Lampedusa. Se l'incidente succede altrove, uno cerca un aiuto da qualcosa che è più vicino. In tal caso era Lampedusa. Se fosse successo sull'altra sponda all'est della zona maltese, vicino a Creta, uno avrebbe contattato le autorità a Pireus o altrove, anche navi mercantili in zona. Dalla Francia, come dalla Germania, dal Belgio o dalla Gran Bretagna, anche moltissime testate europee hanno seguito ieri a Milano l'apertura del processo Ruby a carico del premier Silvio Berlusconi, accusato di concussione e prostituzione minorile. In totale erano 110 giornalisti stranieri che hanno chiesto di accreditarsi per partecipare all'apertura del dibattimento. E ieri anche loro affollavano l'aula del processo, riaggiornata al 31 maggio, quando potrebbe esserci anche il premier. Il prossimo anno scolastico saranno 1.565 i ragazzi delle superiori che andranno a studiare all'estero, seguendo un corso di cittadinanza europea, oltre il 100% in più rispetto a 10 anni fa. Questo grazie all'impegno della Fondazione Intercultura. Il 40% dei ragazzi sceglie un paese europeo, al primo posto la Germania, molto graditi anche i paesi scandinavi. Ma perché tanta voglia di andare a studiare all'estero? Il segretario generale di Intercultura, Roberto Ruffino, al microfono di Maria Piera Ceci. Uno, che la scuola italiana fa sempre più acqua; due, che le notizie su quello che succede nel mondo sono sempre più di dominio comune; tre, che anche la Commissione europea a Bruxelles si è messa a spingere molto per i programmi internazionali sia all'università che adesso anche nelle scuole secondarie; quattro, che la gente si rende sempre più conto dell'importanza di sapere lingue straniere; cinque, che si parla continuamente di giovani che trovano più lavoro negli altri paesi che in Italia, per cui ovviamente